Prego adesso l'amico Corsini di cominciare con la sua presentazione. Chi avrà la pazienza di arrivare fino all'ultima pagina di questo ultimo lavoro di Sergio Benvenuti potrà avere la certezza di conoscere appieno anche le minute piaghe delle questioni indagate. E pazienza ne occorrerà, ma chiarisco subito che cosa intendo dire, non perché qualche cosa si frapponga tra l'autore e il lettore. Lo studioso deve essere considerato a parte, lo studioso di professione deve essere allenato a note, citazioni, documentazioni e via dicendo. Ma perché la narrazione è così densa e così incessantemente convalidata da referenze archivistiche e storiografiche che richiede indubbiamente un impegno ininterrotto. Questo per dire, sin dall'inizio, che si tratta di un libro di storia con tutti gli apparati documentari e bibliografici usati da chi conosce i ferri del mestiere, non di un libro di lettura, anche se è un libro che io credo dovrebbe essere letto da molti, se non da tutti noi, trentini, e anche da studiosi fuori di Trento. Per non scoraggiare chi volesse avvicinarsi adesso, dirò però che chiunque può aprirlo in qualsiasi pagina, così a caso, e restarne subito preso, perché il periodizzare breve e non involuto, la concentrazione dei fatti e dei problemi in una successione rapida e puntuale permette in ogni momento di prendere conoscenza di quanto vi è scritto e di afferrare con esattezza le problematiche trattate. Dirò qualche cosa, anche se è molto conosciuto, ma è doveroso in una presentazione, qualche cosa dell'autore, che non è nuovo a tematiche che le stesse tematiche che esplora e tratta in quest'opera. Proviene dagli studi filosofici e di storia della filosofia. Si è imbattuto in questi studi ancora in anni lontani con il Rosmini e con le sue dottrine, e ne ha visto la loro ricaduta sul piano politico, anche sul piano politico della storia trentina. Ai vescovi di Trento e di Bressanone, a quelli di questo nostro secolo, ha dedicato non poche pagine sulla rivista Studi Trentini di Scienze Storiche. E prima di questo, l'ultimo suo volume, del 1987, poco più di 2 anni fa circa, dal titolo La Chiesa Trentina e la questione nazionale, è stato ampiamente e favorevolmente recensito nella rassegna storica del Risorgimento, che esce a Roma, nel recentissimo fascicolo, uscito da pochi. Queste alcune notizie dell'autore dovevo darle, secondo me, perché Sergio Benvenuti, con un costume non certo seguito da tutti, lavora e tace e non parla e non fa parlare di sé. Egli, e concludo questa parte, si è occupato anche della questione dell'autonomia trentina dal 1848 al 1914, pubblicando nel 1978, nelle edizioni della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, un corpus ragionato delle petizioni, delle proposte, dei progetti di statuto per l'autonomia separata del Trentino dal Tirolo, presentati dalla popolazione e dai deputati trentini alla Dieta di Innsbruck e al Parlamento di Vienna. Venendo a parlare ora di questo volume, va innanzitutto posta attenzione al titolo, che è assai significativo. I principi vescovi di Trento, fra Roma e Vienna. Evidenzia, ognuno lo intuisce il primo acchito, non certo la collocazione geografica della diocesi di San Vigilio, che è proprio a metà strada tra le due capitali, una della cattolicità, l'altra dell'impero. Posta la prima nel centro secolare della latinità, la seconda nel centro di riferimento di gran parte del mondo culturale germanico e mitteleuropeo. Per il periodo preso in esame e per i quattro principi vescovi che a Trento occuparono la sede di San Vigilio tra il 1861 e il 1918, l'ultimo proseguì ancora il grande principe vescovo Celestino Endrici anche dopo la prima guerra, fino sulle soglie della seconda. Per questo periodo, essere fra Roma e Vienna, nella obbedienza canonica e confessionale al papato e nell'orbita politica dell'impero, significò trovarsi nel mezzo e schierarsi a fianco dell'una o dell'altra delle spinte culturali e dei movimenti conservatori o innovatori che in quel periodo di poco più di mezzo secolo animarono il clima europeo, oppure tentare un'opera di mediazione. Nel panorama e nel piccolo quadro trentino, proprio per la sua collocazione geopolitica, si riflettono in quei decenni e si ripercuotono di rimbalzo tutti i fermenti, i moti, le correnti di pensiero, le pronunce dottrinali provenienti dall'Italia, dall'impero, dalla stessa Germania. La intera comunità trentina ne prova, con il crucio intellettuale e politico, anche la vivacità che la sollecita a prendere conoscenza e ad assumere una propria posizione. E nella comunità trentina, accanto al radicarsi del liberalismo, poi sul finire del secolo, del pensiero e dell'indirizzo socialista, è chiamata in prima persona la Chiesa diocesana e il suo pastore. E quei decenni, dal 1861 al 1914 e poi 18, non sono certo privi di fatti e momenti culturali, sociali e politici di rilievo eccezionale, ed è di fronte ad essi che la Chiesa trentina e i principi vescovi che la reggono, devono prendere posizione. C'è, per dire riassuntivamente, il processo risorgimentale in atto e la questione nazionale, non soltanto in Italia e nel Trentino, ma nello stesso impero, nella Mitteleuropa, nella Germania. E da poco finita nel 61, quella che è chiamata la seconda guerra di indipendenza, la guerra del 59, e con quella del 66 i confini d'Italia, del Regno d'Italia, sono già a ridosso del Trentino. È finito, lo ricordava adesso il professor Vandruska, è finito il periodo di neoassolutismo e con la patente del febbraio del 1861, proprio negli stessi giorni quasi, quando prende possesso della diocesi di San Vigilio il vescovo di Cabona, l'impero adotta, si conforma nelle strutture costituzionali e parlamentari. Nel 70 col Concilio Vaticano I, proclamato il dogma della infallibilità pontificia, Vienna considera mutati i contraenti la Convenzione del 55, quello che passa sotto il nome di concordato, denuncia il concordato stesso, abrogando la patente sovrana che l'aveva adottata. E sempre nel 70 cade il potere temporale della Chiesa, Roma diventa capitale d'Italia, di uno Stato sempre più liberale e laico. Tra il 68 e il 74 nell'impero e perciò anche nel Trentino si discute animatamente e poi si approvano le cosiddette leggi confessionali che introducono vigorose riforme in senso liberale e laico, sia nei confronti delle confessioni religiose. Lo Stato non era l'impero non era soltanto plurinazionale, ma anche pluriconfessionale. Le confessioni religiose esistenti, ma più di tutto vigorose riforme in questo senso, nel senso detto, nella conduzione della scuola pubblica. E monta l'irredentismo e il pangermanesimo, con quelle venature, questo, parlo del pangermanesimo, non solo di laicità, ma anche di protestantesimo. E poi il grande processo e movimento per le riforme elettorali, che culmina nel 1906 con la riforma che introduce il suffragio universale, così era detto, anche se restava fuori per esempio tutte le donne, vabbè, non era universale nel senso stretto. Beh, nel 1906 che apre spazio, vabbè, non è vero, alla vera e propria democrazia e all'entrata, già avviata peraltro, ma adesso eclatante, all'entrata dei partiti di massa nella scena politica e nello stesso Parlamento. E per tutto il periodo, sullo sfondo, il contrasto provocato dal perdurare dell'indirizzo giuseppino nell'impero degli Asburgo, quell'indirizzo giuseppino che proprio nella vita della Chiesa trentina finisce per contrapporre in un modo esplicito Vienna a Roma. E infine l'avanzarsi del cattolicesimo politico e sociale e con le sue organizzazioni sulla scia di quel grande avvenimento dottrinale che è stato non solo per il mondo cattolico, ma per tutta la comunità, l'enciclica Rerum Novarum. E i vescovi di Trento sono appunto, come dice il titolo, fra Roma e Vienna, fra passato e un futuro che si presenta sempre più decisamente attivo, e si trovano a dover svolgere quest'opera in parte di contenimento, in parte di mediazione, tanto nei problemi sociali quanto in quelli politici, e qui nel Trentino, per la particolare situazione in cui si trovava, geografica e di appartenenza all'impero, anche un'opera di mediazione nella questione nazionale che ormai sul finire del secolo e all'inizio di questo secolo cessa di avere risvolti esclusivamente culturali e acquista imperiosamente anche i suoi aspetti e le sue richieste di soluzioni territoriali. Queste le tematiche del volume, ciascuna delle quali meriterebbe evidentemente un discorso a sé. A noi pare di dover sottolineare in questa sede due aspetti dell'opera del Benvenuti. Il primo dei criteri seguiti, il secondo del come quest'opera si colloca nella traccia della storiografia trentina e sul Trentino. L'autore registra i fatti e le posizioni con cura e precisione e i giudizi conseguenti li lascia al lettore. Mi pare che questo sia un atto di rispetto in materia tanto delicata. Chi si attendesse una storiografia ideologica o di battaglia ne resterebbe senza dubbio deluso. È una materia questa di Chiesa e Stato, di confessionalismo e liberalismo, in cui è estremamente facile, e purtroppo ne leggiamo quasi quotidianamente esempi, estremamente facile partire in resta a favore dell'una o dell'altra delle parti. Più difficile è responsabilmente offrire in serenità gli elementi per il giudizio storico che deve essere prima di tutti e sopraltro qualsiasi un giudizio di natura conoscitiva. L'autore ha scelto questa seconda via e si è tenuto rigidamente in essa e ha offerto una documentazione che, mio modesto avviso, resterà però primaria e fondamentale per chiunque altro volesse affrontare queste tematiche. La seconda considerazione che mi pare di dover fare, e con la quale chiudo questa breve presentazione dell'opera, riguarda il come essa si collochi nella linea della storiografia sul Trentino e del Trentino. Il secolo della storia, quello che noi chiamiamo l'Ottocento, in questa nostra terra ha avuto, a dire il vero, inizio ancor prima dell'Ottocento, con alcune opere di critica e revisione storica che provengono dalla fine del secolo dei Lumi, provengono dal Settecento Roveretano. L'annessione all'Austria e l'incorporamento nel Tirolo, l'incorporamento, l'annessione del Trentino e l'incorporamento del Trentino nel Tirolo dal 1803, suscitò una produzione storiografica militante sulla identità nazionale del Trentino, accentuatasi ovviamente nel periodo dell'irredentismo e del pangermanesimo e nell'imminenza della Prima Guerra Mondiale, anche in risposta ad una altrettanto militante storiografia di parte tirolese e di parte tedesca. Ma a prescindere dall'accento nazionale, i prodotti della storiografia trentina sul Trentino della seconda metà del secolo scorso e di questo secolo, sul piano scientifico, possono essere qua e là, come a tutti accade, censurabili nei dettagli, ma hanno una loro dignità e serietà metodologica che fa onore alla nostra terra. Parlo ovviamente delle opere di storici, non gli altri. Forse è mancato l'inserimento costante della storia trentina nel più vasto quadro della storia europea. Non si trattava allora, intendo sino ai primi vent'anni di questo secolo, di una forma di trentinismo, ma indubbiamente vi fu una focalizzazione sui problemi più brucianti del momento. Un pericolo del trentinismo, semmai, si può riscontrare in tempi più vicini a noi. Vivamente apprezzabile è dunque questo lavoro di Sergio Benvenuti, che nel filone di una storiografia attuale indaga la situazione trentina non isolatamente in se stessa, bensì proiettandola sulla più vasta realtà storica dei tempi considerati. Vorrei ripetere qui qualche cosa che alcuni dei presenti mi avranno sentito sicuramente dire più volte, ma mi pare che proprio sia opportuno. Ripetere, trasportandola nel caso della storiografia trentina, un ammonimento di Franco Venturi dato per la storiografia risorgimentale. Ci insegnava Franco Venturi per la storia del risorgimento che una retta posizione di partenza è quella di guardare non l'Europa da Torino, ma Torino nell'Europa. Ecco, pare anche a me che questo criterio vada adottato per la storiografia sul Trentino e vada adottato dagli storici trentini. Guardare non l'Europa da Trento o da Rovereto, o, mi si scusi, non è una battuta polemica, ma è un giudizio storiografico, guardare l'Europa da Innsbruck, ma guardare il Trentino nell'Europa. Mi pare che nell'ambito del mondo culturale, politico, italo-germanico, Sergio Benvenuti abbia imbroccato questa via e percorsa con costanza sino alla fine, dandoci l'esempio di come può essere una nuova storiografia trentina. Ringrazio l'amico Corsini.